frittata e voglio vedo se gliela può, eh. Non ho fatto mai per tempo, aspetto che si gira, ci vengono i tipici. Ah, non vedo, dai, poi vedremo. Ha montato su. Vedi la via d'accesso, almeno è contento che mi avanti. Ci sono entrato mai, è morto perché se gliela può fare, aspetto che sono i tipici lui. Ho fatto tutto con la corriera? No, c'è la bolla che si fa questa. Quella cazzo di cosa? No, ma che metodo è questo di vedere il rapanaio? Questi sono metodi per vendita che ci sono 20 anni fa, adesso non vedi più dalle parti nostre. Se mi riprendiamo mai non è una cosa. La ragioniero gli ha da adesso quella lì che sta fatto sapere, danno il resto, fa la fattura, ci ha messo, fa fare che ne è un oh, hai sentito che i zappannoni altri ne esistono, guarda questo quanto è alto, tu c'è la roba tua. Anche per loro stessi, no, ma il giorno che non ci vengono i zappannoni da noi, no? Il giorno che tu è, almeno tu vai in figura, niente. Costruendo spettacolo. E cosa? Invece 60 e kilowatt, 4,40, così è. Ma che tipologia di apparato è? HF o CP? Non la vedo. Non lo so, boh, cosa puoi aver comprato, ma nuovo? Ah, ho capito. Il Galaxy Saturn, ecco. Io adesso quando esce quello nuovo, il Saturn, ecco, lo vedo. E mi metto, mi compro quello nuovo. E che microfono? E vabbè, comunque è un amplificato. E vabbè, adesso lo sentiamo come esce. E lì ci va molto bene il carro FP2 del Galaxy Saturn, ecco. Com'è, nuovo? Cava cava. Speriamo che vada bene, là. Meglio così, almeno sei sicuro che quello che ti manda non è un incrocchio, perché una volta da internet ne ho preso uno e usciva praticamente con un'alternata, era solo da cambiare il trasformatore che ha dentro, oppure fare l'uscita da dentro e usare un alimentatore esterno, ma alla fine l'ho regalato perché mi stava rompendo, l'ho portato a aggiustare e non ne hanno cavato più. E il prezzo è suo, è il microfono normale, te l'ha dato. Beh, infatti, interessante che sia stato, non lo usi mai quello normale. No, a me mi è arrivato, cioè mi è arrivato, me l'hanno dato col microfono originale, 200 euro. Però è impeccabile, non c'è un graffio. Va bene, è fatto bene, hai preso un bel apparecchio, non te ne pentirai. Io adesso sto scendo col Saturnecco e con la Static da Palmo. Come sta andando la radio? L'ho visto anche a Bellino quel microfono, se va bene, guarda, questo qui è la Static, come mi senti? Vai, vai, vedi che mi sono trasferito qua perché non sentivo nessuno. Ma poi magari ci faccio un salto, avanti. E beh, benito. Un giro là, dai, non c'è nessuno. Allora, infatti mi dice come una prova, lo fa una prova, e questo mio amico mi ha portato il telefono, l'avevo sistemato, ho detto non lo carica, ho attaccato il caricabatterie e mi lo sta caricando. Allora il caricabatterie è bruciato. No, ma non è caricabatterie, magari c'è uno spinotto mezzo andato. Può essere. Può essere che c'è lo spinotto che non è andando assai bene. E poi c'è anche lo spinotto che è stato attaccato a quello. Non è brumato, magari non vale manco brumato, c'è un bavito. E tu c'è quello buono che funziona bene e va. E infatti io mi ho attaccato un altro e sta funzionando. E il capo suo è io. Cazzo, ma dimmi di tempo, boh. Io non vuoi fare, non ha mai danni prima. Allora, l'ha parlato dal tecnico, no? E gli ha cambiato tutto il connettore. La procedura l'aveva pagato all'epoca un bel di soldi, un bel di dinaro. E il tecnico gli ha cambiato, gli ha dato per un po', poi gli ha fatto il difetto, gli ha riportato e gli ha detto non si poteva fare niente. Allora io gli ho fatto una cosettina, infatti lui è rimasto meravigliato, guarda, ho detto non ci credo, sì, è allucinante, vabbè. Ma infatti è più strano, che quella volta che gli ho fatto, no, va bene, capito. E infatti adesso sto controllando e sta caricando, perciò quella cosa che gli avevo fatto io sta ancora andando, se non l'avrebbe caricato. Capo, ma che telefono è? Samsung? No, un Sony Xperia. Cosa è un Sony? Sony Xperia. Cazzo, è velocissimo, ho preso un telefono perché è un bel veloce, ma veloce. Capo. Sì, vabbè. Di che periodo è? Questa avrà... 5 anni. 4-5 anni, ma è velocissimo come telefono. Sì, devo avere le memorie come sono. Ah, di memoria c'ha 64 lui il telefono e 64 di SSD. Ma di SD. Non è male, dai. Non è male, il adesso ci sono telefoni che vanno bene. Vabbè, c'è un SD, ci va benissimo, non è che non benissimo, di più. Adesso mi sto comprando un S21, cazzo costa, mi sto comprando, sto valutando, là. L'S21, poi da ridu, Quello che io ho, sono sempre su quella linea, su Redmi, che mi trovo benissimo, mi trovo, non mi hanno mai dato un problema, né quello che c'avevo prima e questo che ho adesso, mi piacciono quelli. Ho preso anche il 9, il modello 9 ed è eccezionale, funziona che è una meraviglia. Sì, anche il Xiaomi, boh. Ma te c'è Redmi Xiaomi, c'è scritto, è la stessa cosa. Sì, il caso si chiama Xiaomi, boh. Xiaomi Redmi è il mio. Sì, sono buoni anche quelli, altro. Ho notato che hanno anche un display massiccio, che ne ho sistemato uno, ne ho riserva. Cioè, l'ho sistemato, avevo cambiato il display, da. Ed è massiccio il display, non è i telefoni tipo, cioè, tipo su di... ci sono vari Samsung, quello che c'erano il display un bel delicato e sottile, no? Un certo qua molto massiccio come display. Sì, sono buoni. E c'è il Note, Xiaomi, come si chiama, il Note 10 mi pare. Vanno bene. Strano che l'abbia rotto, perché non è che si facciano i gusti, quelli che è proprio sfortunato. No, vabbè, cioè, per me non è carico di più, no, già sta caricando. No, è proprio, secondo me è il cavetto suo che è andato. Sicuramente. Comunque questi errori Redmi, Xiaomi, dai, sono una gannonata, no, niente da dire. sono massicci e fanno questi roba display perché sono fatti con un materiale che ad alta resistenza, capito? Ho visto un video dove spaccavano anche le noci, non si va via nulla. Sì, lo sto dicendo io a tu, io lo sai che ne mano col telefono, cazzo, è veramente massiccio il display, è un ottimo telefono. Cabba, è per quello che a me piacciono molto perché secondo me i telefoni bigli sono delicati, ci barra tutto. E infatti, adesso devo fare un acquisto su eBay, vediamo un po'. Allora, eBay, devo ordinare una batteria. Cabba. E poi c'è una batteria allucinante, quello che c'ho io c'è la ricarica rapida, quello c'è il caricabatterie con la ricarica rapida, quello di Sara no, però se li metto questo funziona lo stesso. Io c'ho caricabatterie rapido lo stesso, non lo carica in un'ora neanche. Usa, mezz'ora è a posto. Solo che rovina la batteria, lo sai, perché la carica rete è meglio. No, col suo caricabatterie no, a me non mi ha mai fatto nulla. Alto, però la carica, più lento carica è meglio, capito? Sono stati studiati con quel sistema lì, quindi non li dovrebbe far nulla. Certo, scrive pure, ricarica rapida. Batteria ordinata, questa volta in fresa con il telefonino, ci metto un attimo. Cappa, sì. Comunque già ultimamente già ci sono telefoni belli in giro, con funzionalità allucinanti. Sì, e beh, meglio l'S8. L'S21. È un telefono micidiale, se l'ha preso un amico, 1.400 euro l'ha pagato. No, non lo spenderei mai. Vabbè. Mi fa male, cioè praticamente si dividono, non riesco mai a stare in piedi. È una bella visita ci vorrebbe lui. Io non l'ho fatta, Antu, l'ho fatta, cazzo se l'ho fatta. Ecco la danni ritto. E non lo fa la fisioterapia. La vuoi va. Lo so, solo che purtroppo è entrato lo sto cacchio di Covid, è un casino. Cabba, ma secondo me... Beh, loro si sbrigano subito con questi gattardi. Secondo me ci vuole una visita molto più profonda, se ci vorrebbe, perché non è normale. Cosa vuoi che ti dica? Cazzo, guarda, non è cosa più ferma. Ma poi il Roberto che rimane bussato, mi fa zimmare, stanno comprimendo le ciappette, mi... Mamma mia, grazie, nascosemi, vai, grazie. Non è normale, Lu. Ti devi far guardare da qualcuno che ne sappia. Wow, veramente, se non posso stare seduto. Guarda, tu non hai idea, le stelle ti fa vedere, le stelle. Lo so. Ma c'è da chi cura veramente queste cose, da chi ne sa. Cazzo, allucinante. Non c'è cosa più brutta, no, ma questo che c'ho io veramente non ti fa fare niente. E poi ti cammini e ti devi bloccare. Devi stare dritto, se fai adesso tipo ti pieghi, mamma mia, cazzo, un casino, rischi anche di cadere a terra così come uno scemo. Non sono segni belli mio, Lu. Non sono per niente segni belli. Vai, fatti controllare il ragazzo fisioterapia, fatti controllare da qualcuno che ne sa molto di queste malattie, una persona molto esperta. Beh, certo. Certo che sì, che casino, va, per carità. Non è possibile, va. Non è normale che tu devi gaggi. No, non è che devo gaggi, devo durare, mi capito, tu. No, è talmente forte e rischio di cadere. Vedi un po' il lupo. Qualcuno che sa di queste situazioni qua. C'è qualcuno molto più approfondito. E ti dici la fisioterapia, speriamo che sia solo chissà come ti dici niente. Che cosa vuoi che ti dica? Andiamo a ti col cuore, io posso. Oggi la metto, sì. Oggi stiamo vagliando? Sì. Ho capito. Lascia vedere, ma che cacchio è? Prodotti, ecco. È il tuo pagamento? 2 marzo. No, ecco, qua c'è qualcosa che non può. Ecco. A 2 marzo? 2 marzo. Pagamento? Oggi quanto è 2 marzo? Cosa? Non c'è del febbraio. Il vetrino, proprio adesso devo controllare quando è che arriva il vetrino. E mi sei tutto quanto rotto. La protezione del telefono. Capita. Ok, dai, bianco per me che io devo andare avanti, devo farmi la doccia. Ci sentiamo dopo. Ehi, vai avanti, già sono qua. Sono mi addormento. Ok, va. Sono imbriaco di te, bello, si anda a travagliare. Ma non è bella la canzone. C'è Giovanni e Giovanni, è inutile. Carmelio. Capo, mi è piaciuto un bel quando è morto, capo. E punisciami. È una brava persona, però, Poi, no, guarda. Come si dice, da... Giovannino era il mondo sempre. Sì, è vero, e anche pure lo cos'era, cugnato di un Beppe, pure vedo già, e mi guardo un bel, una persona seria. No, il genero. Lui è naro, e con Giovanna con la migliore, così è. Gabba. C'è la figlia più grande, forse. Cosa? Forse è la figlia più manna che vane. Aspetta un attimo, devo rispondere un messaggio. Capa. Figlia, devo rispondere un messaggio a Facebook. Poi quando il telefono le carichie, ne si avete che percentuale, E prova a vedere. Sembra un po' tanto che era 5%, adesso è 67%. Capa. Il sindaco lo va a Ferrari. Ferrari S21 la livrea. Completamente diversa dall'altra, era ora. La Ferrari Ivrea. La Ivrea, cioè la nuova, come si dice, la nuova veste della Ferrari. È diversa. La Ivrea sarebbe tutta la carrozzeria, come è fatta. Completamente diversa dall'altra. Ci manca a girarmi le ore, ci metto mezz'ora a girarmi. Sai, quando ti giri dal letto e poi leggi a te una parte dall'altra, ci metto un bel altro, cazzo, ma tanto ti passano una nottata di merda. Cosa te la può aver fatto? Sforzi un bel fatto. Ma tanto mi vengono comunque, anche se mi mi abbasso, ma lo faceva di meno, non così. Ma io così sono da fine al pronto soccorso. Guarda che non riuscivo a camminare. E tu pensa, non riuscivo manco ad astrarmi dal lettino. Mi hanno fatto la... come si chiama? La flebo, l'antidolorifico. E mi ha passato, la verità. C'avevo poco, poco, stavo bene. Ma capo, non posso stare... c'è la forza di antidolorifico, non è possibile. Non è possibile, va via. Adesso qua cosa si chiama? Non lo so. Bisogna andare a uno specialista. Aspetta due secondi per uno spray, aspetta. Via. Via, grazie, ma ti metto. Mica bussi, ma carità. Vabbè, pazienza. Tutto rimuova intanto, tutto ai poveri. Che è successo? No, dico, tutto ai poveri. È ricchi non hanno di questi dolori. Una volta si gratta io, non travagliano, cosa fanno, duro la gente. Ciao, andare da là, non di la bruca. Guarda, c'è buru, c'è, ma cosa fanno? Una voce hanno degli altri a noi, c'è di nabbo. Cioè, io non dico che deve andare tutto a uno, pure un po' a noi. Di soldi, mi per ogni cosa soldi, solo soldi. Capo, ma a me la fa un po' più bene, cavolo. Io già li avrei voluti, già li avrei voluto qualche soldo, ma qua sta un pochetto più bene. Perché l'ha cercato i beni, la vita che si muovende, ma non dico niente, cioè io se avrei avuto quei soldi che ha avuto certa gente che si ramagnardi, che si è fatto un po' su da sé, io sarei stato bene affuttito, come ti si dice, cioè l'ho fatto bene, non mi era mancato nulla. Beh, è un casino, Capa. Io me lo auguro un po' di fortuna nella vita, ragazzi. Un po' di fortuna, ma avrei abbigliato una casa più manna di ghiccia. E via. Se avessi comprato una casa? No, questa no. Ma l'avrei presa, cioè non lavorando, non facendo niente, me l'avrei presa. Non ci avrei abitato più qua. Cioè, neanche a Sassari. Cioè, non avendo la possibilità di non lavorare più, che me lo faceva? O me ne era andato in qualche posto di mare, me ne era andato. Perché poco vicino a Sassari, a Platamona, in quei posti lì, me l'avrei presa. Tanto, non sta travagliando, non mi deve passare più, quindi cosa me ne ha fatti? Che male, c'è stato che sia l'uva. Ehi, quello di là tutto si può fare, quello di là ti fai mille comodità, e così mi... una boccata che da capate la difesa e da voi ti trande... quanti si dice, da voi di andare a casa. Beh, certo. Vabbè, so che va, purtroppo, così. Ci sono anche persone che sono nate ricche, pensate, ma i genitori ricchi lo fanno studiare e poi quando diventa grande non ha bisogno di lavorare, chi va a parate. Purtroppo la fortuna, quelle sono le fortune della vita. Ma il capo, e invece avevo voluto la fortuna di avà, ero stato più bene di loro pure. E vabbè. Ma che io da ragazzino piccolo, non è che... Non so, ma cosa, ma mi ha fatto lo tanto mio e basta, ma poi, non devo andare oggi, faccio fare amico a Cagliari, pronti? Ma poi non devo andare, un amico verrà giù a Roma, questa settimana me ne vado a Roma a trovare questo amico, per dire, e poi me ne dorro, così, tranquillo. Beh, certo. Monilli. Beh. sui bottoni, non è buono sui bottoni, come dici, non è peggiorato sto. Si deve fare una risonanza magnetica, però è 50 volte. E la ciappana mi libero, me la vado e me la faccio, una fuggita, tanto non pago io. Vado al medico, faccio fare l'impegnativo. E anch'io pago, io sono esente. Esente a vita, qualsiasi analisi che faccio, visita eccetera, non pago niente. Quindi, occhio, perché io il 23 questo mese devo fare la visita e forse, non voglio esagerare, ma entro fine mese io ho fatto. Ma non so se tu nessuno a operare io. Non lo so. Secondo me sono seduto, mi fanno male, non tutte le chiappe, per la parte alta, no? Le due chiappe lì mi fa male, capito? Sì, anche a me, i glutei. E poi scende giù fino alla coscia. No, la coscia non me la prende, Tony, no, no, assolutamente. No, a me sì, è fiammato a me, quindi. Io quando prendo quelli antidolorifici, Aerital, poi no, ti sto bene, adesso dico al dottore se me lo posso prendere di giorno, così cammino e ho un bel. Ma se non riesco mai a girarmi la notte, Tony, ci metto un bel, ma un bel mi, un bel, perché mi fa troppo male, troppo. Devo stare in una posizione ferma e secca e pesco, cioè tipo cadavere, mi veramente non muori, cucci di bucai. E anch'io ero all'inizio così. Ciao comunque anche Antonio. Ero all'inizio anch'io così, guarda. E lui. Io mi agognerò, ma per sicuro tu fai questa risonanza. Poi, se non c'è, ci sarà qualche altra cosa, perché è possibile. Hai i sintomi che c'hai, li ho avuti anch'io. Boh, avanti Antonio. È così che bisogna che ti impegni. Devi scoprire la cosa, a vedere che cosa c'è. L'unica cosa è fare questa risonanza, come dice Tonino, e vedere un po' com'è la situazione. Perché non è normale quello che sta succedendo. Ma io che di ne avrei già fatti pronti. L'altra volta mi sono portato 700, adesso me ne porto anche 800, non me ne frega niente. Prima la salute, non guardo niente di queste cose qua. Tanto ripeto, quando ho fatto il viaggio ve lo pagare io, qui a base. Secondo base qualche giorno, uno o due, massimo tre, ma massimo me. Io mi cerco un B&B per forza. Perché là, due giorni prima ti visitano. E dopo altri due giorni poi ti ricoprono, capito? E poi lì te le puoi andare via. Ma ti dimettono, fatti direttamente tornare indietro. Quindi, un po' soldi si spendono per forza, e treno, aereo, eccetera, eccetera. Lo so, venivo lì di là, però cosa fai? Alla fine, cioè, se uno riesce ad andare meglio, cioè, perché prima la salute, da cui bisogna i curvi di là. Oh, Tony, uno sta dicendo che io ho il Covid, perché c'ho mal di schiena, cazzo, mal di mezzo. Non ho capito. Ha detto, siccome l'ho scritto su Facebook che c'ho questo cazzo, che mal di schiena non mi può passare, no? E uno ha scritto che ho il Covid, che per quello c'ho mal di schiena. E tu ce l'hai nel buco del gnao, il Covid, e anche nel cervello. Innanzitutto il Covid non è così, la base uno perde la sensibilità dell'olfatto e del sapore, innanzitutto. Può trovare febbre, può darsi pure che non te le dà, però le cose più essenziali l'olfatto e il sapore, capito? Ma niente, ma io forse che a te in Facebook non avrei scritto nulla di questa roba qua, voi. Io per il mio sorpreso non ho mai scritto niente. Poi quando è stato, via, siamo partiti, eccetera, abbiamo fatto. Dico solo una cosa, Luca, per come ho passato io quei 5 giorni a quel QTHH, ti posso dire che ci vado ben volentieri. Una struttura gigantesca, veramente bravi dall'A alla Z, controllato dalla testa ai piedi. Prima di operarti, innanzitutto, le visite te ne fanno un casino. E sono molto, molto attenti su molte cose. Io ripeto, ci vado ben volentieri perché ho visto come prima di operarmi, poi mi hanno operato e poi cosa ho fatto, ripeto, sono troppo contento, ci rivado a occhi chiusi. Tony, vai, ma quale malattia sei? Cappa, ma mi sa che domenica andrò al patronato, mi sa che vado in pensione direttamente. Tanto mi mancano 6 mesi, cosa vi la fai? Ma cappa, quando le cose occorrono, purtroppo è così, cosa vuoi fare? meglio la salute prima, poi il resto si vede. Per patologia riconosciuta, automaticamente sono pagato il 100% e non viene neanche il medico fiscale. È vero? Beh, per patologia riconosciuta sì, perché automaticamente io, quando ho avuto il 75% di invalidità, l'ho avuta sia per il cuore che anche per l'irrisco e per il diabete, è tutto messo in mezzo. Quindi fa parte anche quella patologia riconosciuta. Non si può andare ma che pensione tranquilli, mamma mia. Tocca di ributtare a tu e credo che tu, quando andrai in pensione, mi auguro che non ci avrai niente e che la pensione ci sia ancora, anche se vuoi bene se mangi di tutto. I cani si rimangiano in di sopra. Cioè, ma veramente no. Sono persone, adesso ci sono persone studiate, ma Ruzzai Beddo hanno poco cervello proprio. Prima c'erano persone meno studiate, ma il cervello gli funzionava molto di più. Ecco ciò che fa, la vita è questa, purtroppo. Andrà bene. Scusate, dai, devo fare la massa alla mia doccia consorte. A dopo, se ci siete. Ehi, chi è, beh? Dai, fra le carichette. Povero me che, povero me, sono un altro bomba di graziato proprio, E cosa vuoi fare? Ah, lo manco, vabbè, povero ci sta, tu, va a far culo, pure di graziato no, tanto, cazzo, Lo so, si cerca sempre di migliorare nella vita, speriamo di migliorare un po' tutti. Comunque me la panaschita ci vuole quella dell'asino, della cruca, devo scendere domani mattina allora. Oh, chissà di là, no, a fotti dimmi che non andava bene, no. Ma non andava bene, allora ci avete un guavato. Chiappa, e a me mi fa zimare, dove c'è, come si chiama? Il piede, la caviglia. Più sotto delle dita. Mi fa male lì. Come ti marasso di giamma, non ci non tallone, no. O tallone, quello che c'è sotto, sotto le dita del piede, come si chiama? La pianta del piede. La pianta dei rubedi mi fa di male. Sono scappati fortunisti che tu. Quelle sono maledette, mamma, io li odio. No, non è per quello, no, perché ho sbattuto qua. Ah, allora si è sbattuto con l'altra musica. Due palle, due palle. Allora, aspetta un attimino. Allora, a quanto c'è? Tanto vale, ce l'ho a 5, va bene, ho troppo alto. A voglia che andava, è perfetto. Cazzo, ma non è carica di più il telefono, la paga. Non è che ha finito, no? No, no. No, no, sta caricando adesso. Giravate di balle. Cosa ci può avere questo coso? Boh, è che sono in gioco. Ho la batteria mezzo scemidata. No, oh, no, non è la batteria. Mi adesso abbiamo ripartito. Che palle. Boh. No, è al 73% adesso. No, non è la batteria. Ma guarda, questo telefono è veramente massiccio, Se ce l'abbiamo pagato un po' di dirà, mi pare 700 euro, 800 euro. Lo so già. Un peccato, Io non posso fare nulla, io abito, fatto, cosa non fa, mi auguro non li posso. Se non posso amarci due, cosa ti ricordi da roba a digio? Io gli ho detto di cambiare il connettore, e ce l'ha già cambiato, cosa... Perché il connettore l'ho testato ed è buono, quando non si riesce a caricare batterie, siccome di quei connettori che si può smontare, no, lo devi aprire il telefono, lo devi scaldare dietro, devo andare il tappo perché c'ha la colla. Il connettore a riffa, c'era la tensione a riffa, e che molte volte manca perché va poi a pagare la scheda madre, no? Non lo so. Boh, ma sta caricando di nuovo. Allora mi dico, tu vai, certo. Io te lo metterò. Capo. Cosa c'è vendi già? Facendo la televisione. Ah. Scappa, cosa vuoi fare? È purtroppo. E così, ma non è che va, che soffre pure, che sa cosa. Luca. Sono qua, dimmi. Oggi non è che va a chiamare su il software per fare così, no? Non è che? C'è il software per fare queste cose qua. Assolutamente no. E allora cosa in gioco? Vabbè, magari è stato... Cosa adesso? Non lo so, atto. Ci sono, vabbè, capisco, un ragazzino, vabbè, ragazzini bambini, dai, diciamo, che hanno il vizio di attaccare il telefono a caricare, e mentre carica giocano, e magari giocano, se ne accorgono, danno l'estrattonate, no, e quelli rovinano il connettore, uno di oggi riparato. No, se carico e scarico, è carico, se non è carico, vanno a caricare, boh. Non ho già di fare che cose. Vabbè, io lo lascio caricare infatti. Oppure non lo tengo male in vicino, se devo mandare qualche messaggio, ma lo tengo, non lo metto in tira. Poi, si dà, mi dà, io ma se no fuori. Mamma mia. La più buona si chiama. Yeah. Se mi devo girare tu. Lo chiamo per la tre. Se lo sa, vai. Cosa ne so? La vita di tu fare il COVID. Ora ho detto tu un copo di quella metallo anche nella sciampa del QSO, mira. Ma come fa la gente a dire certe cavolate? Ma ti pare se prendeva la schiena, sarei andato alla parte tutto inclinare o per anni. Ma comunque Luca, fatti la risonanza poi. Mi auguro che non c'è questo, diciamo, qualche armietta. Niente mio, se ce l'hai pazienza. Comunque ripeto, manco te la cucci. Ehi, ehi. Adesso vediamo. Casino, beh. Brutto. Io mi sono proprio bloccato, mi sono ammassato, mi stavo controllando. A un tipo, no, che c'è una per 50, mi chiamava spesso, mi si rompeva sempre il filo dell'acceleratore. Dovevo smontare il carburatore. Poi mi sono abbassato, non dice più bisogno a mini giuri. E poi ci sono andato a finire il pronto soccorso. Ma c'è pure il colpo della strega, no? Boh, sempre lì mi faceva, sempre lì, Sempre lì. Poi che si mangia parte ma due, due che tu mi so, Io la bascia non dice più a pisammini, però piano mi sono dubbio, ma piano me, piano, e poi mi sono andato a casa. E da casa poi sono andato a finire il pronto soccorso. Mi ho giocato qualche ora di pronto soccorso. Quanto mettono l'aspetto, un casino. Che poi un pagliativo me, non te lo dico poi, c'è tutto il campo. L'unica è questa, una risonanza magnetica, e poi sei sicuro di quello che hai, capito? Non si può pensare a un'ernia, non si può pensare a altre cose perché non lo sai. Dopo che hai fatto questa risonanza magnetica, allora puoi dire sì, ho questo, mi hanno riscontrato questo. Allora si prenderà i seri provvedimenti per farti passare il suo dolore. Lo so. Non so cose belle, non so proprio cose. Cattivo, stridore, se lo fai mal di denti, mal di capo, io ci soffro di tutto e di più, io, mamma mia, guarda, ma di testa ci soffro, adesso, grazie a Dio se da qualche giorno che sto bene, sono sempre mal di testa, di continuo, mal di testa, così in me, mal di testa. Ti devi riposare un pochettino mentalmente, mal di testa proviene anche da altre cose, troppi, diciamo, cose, studi, pensare, eccetera, tu che giusto i telefonini, pensare a fare qualcosa di diverso, cioè, la mente deve anche riposare un po', Luca, non è che sempre devi stare a martellarti su molte cose, no, o a pensare molte cose, penso giusto, necessario e basta. Io ripeto, se dovesse capitare, o che lo afferra giustamente che tu c'hai un'emia e parte insieme a me, mi fa piacere perché giustamente non rimango solo nella stanza, perché ce le mettono insieme e ci mettono. Quindi, senta a caso, non ce l'hai pazienza, vado solo, non c'è problema. Vabbè, certo. Oh, yeah, yeah. Un casino, va a fare il dare. Un casino. Vabbè. Anche questo mi tocca. Tanto. Non riesco, no, vuole sta girare il dubbio. Non dire a me perché è la stessa cosa, a girarmi il letto è un casino, alzarmi la mattina non ne parliamo. Io mi ci metto un bel po' ad alzarmi, un bel po' veramente, perché come tiro su mi fa male. Allora aspettare un po', piano piano, poi siccome ho la camera a posto, mi aggancio a questo coso, piano piano mi sollevo, se no ce la faccio. Io la mattina lo stesso, adesso molto di meno, adesso mi alzo tranquillamente, capito? Un po' di dolore però mi alzo tranquillamente. Ma prima la mattina piano piano una gamba, poi l'altra, sono sul letto matrimoniale io. Mi siedo sul letto, sto qualche minuto e poi piano piano metto qualche pugno sul letto e mi faccio forza e mi tiro su con le gambe. E grazie a Dio. Adesso questo tutto casino non lo faccio più. Sto leggermente meglio, capito? Però durante il giorno, cioè dopo 10-15 minuti che sei qui da dominare da una parte all'altra, mi viene il dolore agli utili e agli utili fuori sotto la coscia, mi devo sedere per forza. E io questo ritmo non posso mantenerlo così, devo per forza operarmi, buonanotte, posso già, se mi passo questa cura bene, se non passa ciccia, vado. Beh, giusto. Antonio! Ehi, a capa, sono qui. Così è. Bisogna che abbassami a parlare per la goccia, poco. Bisogna che si faccia vedere, perché non vedo da va, se ne ho un macello. Oh, quanti anni c'hai? Io ne faccio 47. Sei giovane, come ti vanno bene 48. Okay, va bene, io ho iniziato a avere il disturbo 60 anni, avanti 67, partite, no? Ma tu sei un bel giovane. Vabbè, comunque diciamo che sto facendo lavori pesanti, è molto pesante adesso. Però dimentica di fare i lavori pesanti perché ormai si arriva con lo stadio, adesso il lavoro di Dio sono una levità di 12 kg di più, capito? Anche se qualche cosa qua me la sollevo, spostarmi il sacchetto alla sabbia sono già 25 kg, capito? E mi viene facile fare le cose anche se non lo dovrei fare, però devo farmi qualche cosa, me la faccio lo stesso a via Bucci. Scusa un attimino, allora, dopo l'operazione, vabbè, poi devi stare in convalescenza, va bene, ma poi puoi fare, non devi fare lavori pesanti, giusto? Anche se sei operato e tutto. No. Se sei operato dopo un mese che puoi stare bene, puoi fare qualsiasi lavoro, l'hai tocco da te, non c'è problema, capito? L'importante è che non ti affatichi tantissimo. Sì, vabbè, sei operato. Ecco, qualsiasi lavoro sì, però sempre cura gaima. Luca, devi farti imparare una cosa, devi capire più una cosa. Praticamente questa ernia esce perché tutti gli sforzi che fai ogni giorno, per mesi e anni, giustamente, cavolo, alla fine dal disco ti esce questa ernia. Loro te la tolgo e sei come prima. Però, giustamente, non continuare a fare sforzi, lo puoi fare una volta, due volte, al prossimo mese una volta, capito? Dici non lo puoi più fare. Vado un casino. Se poi vuoi ricapitare a uscire una teoria da un'altra parte, non lo so più. Andiamo a muovere proprio. Andiamo. Ma dice che si può lavorare sì, però non più come una volta, dicono loro, non è vero. Antonio, io dico piace il culo travaglio, perché io sono già arrivato, capito? oltre a questa età io cosa vuoi che faccio? Lascia perdere, gli faccio i miei lavoretti piccolini e basta, leggeri, capito? Ho già lavorato anche troppo nella mia vita, però giustamente Luca è ancora giovane. Sì, sì, è logico. Ma è giusto che sia così, Tony, quindi travagli, dai che vuoi fare giovane. Travagli e luci. Tony, sai cos'è anche? Che se uno ha bisogno di lavorare e purtroppo fa quel tipo di lavoro, come fa? Cazzo, muore di fame allora, boh. Oh, Sì, ma Luca, non c'è soltanto il lavoro di manovalanza, roba pesante, cioè non ho capito. Io nella vita ho fatto un po' di tutto. Ho iniziato dal manovale, però carpenteria e legno, capito? Poi piano piano ho altri lavori. Ho lavorato anche in carovana io, scaricare i sacchi, cemento, farina, visto che capitava, ero ragazzo. Poi nel tempo mi sono perfezionato, ho preso il mestiere, eccetera, eccetera, è andato avanti così, capito? Però pensavo che nell'elettrico invece stavo bene, invece che non ho potuto fare anche l'idrico, e quando fai il pompe anticidio in casino invece non bene. Quando si guarda di smontarle per ricaricarti, portarle in macchina, portarle a gestare, poi riprendere, riportarle là, piazzarle, è un casino. E il motore già pesa non bene tanto, ma se viene in bagno, oltre il bigliavo, tranne la schiena, capito? E niente, poi sono 23 anni lavorando, boh, basta, sono arrivato il mio, sono andato in pensione, sono un po' felice al mondo. Certo, certi lavori non faccio più. Ma scusa, ma non ce l'avevo fatta qualche cosa per caricarlo? Tipo un carrello particolare o c'è un qualcosa? Caro Antonio, ti spiego. Se tu vai in tutte le scuole superiori e vai nell'anticidio, non è che tu lo trovi fuori, apri la porta che è un terra stata già per l'anticidio. Molte scuole, la maggior parte, dentro la scuola devi scendere le scale, aprire porticina, capito? E se ti pigli un traspallo non fare nei cari, tu ti lanciare con un traspallo e non farmi appoggiare il motore in mano. No, magari stavo pensando, ci sono quei carrelli, ci sono, che io l'ho visti, che vanno bene anche, magari voi eravate sprovvisti, ci sono dei carrellini, ci sono, per metterlo, che hanno quelle ruote che salgono nelle scale, capito? Antonio, lo stai caricando 2-3 sacchi, cioè, pacchi di acqua? Stai caricando 120-130 kg? Mi sono spiegato? Non so. E che si rudi, si infasciali, si climbani. Scappa. Mi sta a mano il gatto delle gocce. Purtroppo sì, l'abbiamo sempre fatto. Non è che tu subito attacchi l'idea. Noi la roba che mia moglie abbiamo comprato, io sfido chiunque che abbia la roba, a lui paga la provincia, paga mica paghiamo noi, ci abbiamo tutto, non ci manca niente. A noi c'è la macchina nuova e il materiale ci avevamo poco e nulla, ci ha comprato il materiale tutto da capo, nuovo. Sono di attrezzatura 2800 euro, tu hai detto tutto. Non lo so. E comunque in teoria, vabbè, purtroppo l'avete fatto. Allora, in chissà che si è scaricato anche cemento, farina, tanti cose, noi argomentavano, prima avevano i sacchi da 50 kg, vedane, adesso sono di 25 per legge. Ma ero ragazzo, forse c'era il mio, grazie a Dio, non ho mai avuto problemi, capito? E non è che l'ho fatto per 20 anni, no, ma no, l'ho fatto 2-3 anni e poi basta. Poi ho fatto altri lavori, c'era più leggero, che di dire il legno, via dicendo, elettrico, idrico, poi, insomma. E vabbè. Comunque, Luca, prima lo fai e meglio è, fatta la salvisionata, fatela, dai retta a me. Adesso sarà a farlo per via del Covid. No, per via del Covid, perché adesso lo puoi fare più di prima. Siamo in zona bianca, lo puoi fare. Fai una cosa, chiami dove c'è Patamona, centro benessere, lo trovi anche su Google, telefoni, prenoti, ti fai fare dal tuo dottore, ti fai fare l'impegnativa e mette l'esenzione, vai e non paghi nulla. Arriva tutti i vatti chiusi, cioè. Cosa? Hai tutti i vatti chiusi. Sì, perché? Me ne sono accorto. Ma è sufficiente, non c'è problema. No, sono in Sassa, ma io sono due passi da Sassa, capito? No, me ne sono accorto solo, basta. Ma è sufficientissimo, non c'è problema. Perché? Come ti sta arrivando? No, sei off, ma va bene. Anche tu sei basso, ho capito? Vabbè, io usavo il lineare, quindi. No, lei si abbasso, cioè non sto fingendo, capito? Se giro già. Ma bravo, fa crema tutto, no? Ma va bene così, va bene. Luca, a te come ti arriva invece il segnale? Chi è? Chi è? Sei in basso di radio, segnale oscillante, ma sei in basso di radio. Tonino Kawasaki da questa parte. Guarda, sei 9:20, la radio è molto molto bassa. Chi sei, scusa? Ah, sì, per caso, quello là, quel fuoristrada. Aspetta, attualmente dove sei? Ho capito, adesso che dove sei? Capito, sono pulito tutta la zona io, grazie a Dio, perché ecco perché arrivi forte. Avanti Lu. Volevo chiedere se era quello col fuoristrada. Ma sei quello col fuoristrada, la macchina grossa, sei tu? L'altro giorno ho visto la macchina parcheggiata vicino a casa mia, io abito al monte. Mi ascolti bene, sì? Capa, è strano però questa modulazione. Tu bene mi senti? Guarda che forse sei in FM. Ok, d'accordo. Non hai detto il tuo nominativo, chi sei? Siamo Tony come soprannome, Antonio. Ah, ho capito, Tony. Anche io mi faccio chiamare Tony, mi chiamo Tonino. E il nominativo Kawasaki. Piacere per la primiera. Sì, in qualche modo mi aiuterete, magari un giorno mi avessi anche a trovarti, ho capito più o meno chi sei, dai. Ma non lo so, se mi conosci. No, aspetta, ma c'è una confusione con me. Io ho detto che sono al monte, ma non sono, quello io lo chiamo attore, non c'entra niente. Noi siamo CB e basta. Non siamo M, infatti, noi siamo CB Lutti, CB Sassa e basta. Sì, dai, in qualche modo ricontatto comunque, grazie per l'aiuto. Di niente, Tony, è un piacere sentire sempre delle persone nuove in frequenza, dai. Ti ringrazio, a presto, buonanotte. Kappa, ciao, avanti Luca. Ciao, ciao, alla prossima, buonanotte. Kappa, la massa chi tiene varia. Ehi, eccomi qua! Io in AM, dai, che sono un casino in FM. Ehi, capa! In FM la sa cosa, eh! Mi è arrivato? Io lo sentivo male ad Antonio in FM. A chi? Ad Antonio. No, io in FM lo sentivo bene, bene, chiaro. In AM sentivo tipo sato, masso. Tu quando Antonio ha detto, sei in FM, va in FM, chiaro, chiaro. Ecco qua. Aspetta. Perché avevo qualche punto di non avevo centrato bene la frequenza, dovrebbe andare bene adesso, ecco qua. Guarda che non c'è bisogno di pompare. No, Tony, beh, tutto non è che pompa, no, c'è tutto è una cosa un po' complicata, no? Che quando vai in FM devi lasciamo perdere. Antonio, forse quell'apparato mi è entrato in mano a me e quando tu non eri ancora nato, fatelo buono. Lo so, però devi andare fuori dalle memorie, devi cercare il canale perché era sottotitolato, cioè, e poi devi abbassare un po' la potenza, cioè, è fatto così, io già lo conosco. Basta andare a 4 watt, cosa c'è in chili, bassa potenza, alta potenza, ma siamo odugliati che non sa se avanti Luca. No, forse non hai compreso, tu non è che va a 2 watt, lui quando tu vai in FM si alza da solo, è diversa la taratura. L'FM è come la M, lo sto dando in base laterale che è il doppio, No. Tony, non si tratta di un baracchino, punto. Io se vuoi te lo dimostro cosa succede. Antonio, sto usando un chilo 440, fai da bravo. Lascia stare. Luca, diglielo tu. Chi ci pare che va una trovata, ragazzo? Non è una trovata, perché conosci che il radio, lo sa cosa succede. Punto, non voglio fare di tendere su nulla, finito il discorso. Tu la prima volta che ce l'hai, tiene per te chissà che cos'è, mica non illudami, non lo penso. Ma cosa hai tratta? Io ho avuto 140, tu, 140. E usciva una bellezza, la radio, era nuova, fiammante, devo di nuova, nuova. E vabbè, e poi, vabbè, queste radio qua sono delicate. Quando vai a revisione, ti ci zocco. Ah, già usai le cose, ma non è che voglio stare a dire cosa c'è qua. Cioè, lo sai, non è, io no, adesso, cioè, non è che sono con Dio, non è che sono nessuno, però non so con cosa si potrà attendere. Punto e basta, finito il discorso. Ma tu pare si trattene un Ferrari, dammi la fine, che pare sia il primo essere che ha un Kingwood, 440, ma... vabbè, maggio 87. E comunque sei anche saturo, perdi da te, non hai una radio ottima, per avere una... vai, finila. Fa poco schifo. Ascolta, dai, buonanotte a tutti, ciao ciao, buonanotte. Buonanotte. Hola. Qui, sei troppo saturo. Devi togliere il processore, devi abbassare un pochettino. Sono basato dalla banda laterale a quello, è logico, la taratura è diversa, ma sto cercando di tararlo, così andava bene. Antonio, siamo andati in FM, noi in banda laterale, USB e le scuole. A pigliarla! In FM, e buh, e non devi tarare nulla. Vabbè, dai, così. Dica a me, avanti lui. Che lascio, cattiva di dirti, dai, che io domani devo andare presto, portare il cane alle 6. Mamma mia, ce la faccio di palle, dai. Ci sentiamo domani, ragazzi, buonanotte e buon proseguimento. Ciao, ciao. E lui, comunque, fate quella risonanza, se c'è anche dolore, continuare domani, dopo domani. In tal caso, quindi se ti calma è bene, se no, fallo. Ciao, buonanotte, sta bene, buon tabacco. Già la faccio sì, non posso fare così, no, non esiste. Cioè, faccio due passi, mi devo bloccare, no, no. No, c'è qualcosa che non va. Dai, a domani, ciao, buonanotte, ciao a tu, riprendi, ciao. Dai, che io smetto perché devo riposare perché sono molto stanco. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao, buonanotte.